Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi torniamo a farvi una domanda di qualche mese fa. Siete pronti a vivere in una città che non dorme mai? Sulla scia del modello americano si allarga la formula Always Open per negozi e servizi. Dopo fast food, supermercati, spazi di coworking e asili nido, è la volta delle palestre. Milano si conferma la città che guida le strategie retail per i grandi brand. È di questi giorni l'apertura del più grande Lego Store d'Italia. Nel focus sui trend spazio ai consumi sensoriali che promuovono nuove esperienze legate ai cinque sensi, passando per nuove sensibilità ambientali e sociali. Ehi, Flash, ti faccio un indovinello? No! Sì, bene. Come si chiama un cammello a tre gobbe? Non lo so. Incinto. Ha, ha, ha. Sì, ha. Divertente, molto divertente. Ora potremo concentrarci sul... Aspetta. Priscilla. Oh, no! Sì? Flash? Come? Sì? No! Chiama! Un cammello a tre gobbe, incinto! Ok, cammello ormai l'ho detto! Per favore, tre... non... Svelto! È quasi l'ora di punta e... è notte! I messed up tonight. L'ora di punta e la notte a Zootropolis c'è di mezzo un bradipo. È tempo di aperture notturne anche in Italia. Interessano sempre più realtà. È la cosiddetta Midnight Economy, l'industria del consumo notturno che in Italia vale 70 miliardi di euro l'anno. Non solo supermercati e fast food, la formula Always Open, All Day Long, 24/7, chiamiamola come vogliamo, si estende a università, spazi di working, asili nido e palestre. A conferma di un mercato pronto per questa rivoluzione, l'arrivo in Italia di Anytime Fitness, catena di palestre nata nel 2002 negli Stati Uniti, che oggi conta 3.300 club in 30 paesi nel mondo, oltre 3 milioni di iscritti. Per rapidità di espansione ha superato, pensate, realtà come McDonald's, Subway o Pizza Hut. Prima apertura nei mesi scorsi a Roma, la prossima presto a Milano, Anytime Fitness permette ai propri membri l'accesso in qualsiasi club del mondo tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. Ci spiega come funziona l'operation manager Gianluca Scazzosi. Si entra con un badge magnetico, si viene riconosciuti dal sistema informatico attraverso le telecamere e quindi si ha accesso alla struttura. La sala corsi, quella dei corsi collettivi, è attrezzata e strutturata con un sistema virtual che permette al nostro cliente di, a qualunque ora appunto, di poter seguire una lezione a sua scelta. Durante le ore della giornata il programma è già predefinito e abbiamo anche istruttori reali, non solo virtuali, quindi durante il giorno c'è anche questa possibilità. Durante la notte ci sono gli istruttori virtuali appunto, e quindi nella sala corsi il cliente entra, decide di fare mezz'ora di yoga alle 3 del mattino, schiaccia un pulsante e parte il video con la lezione di yoga. Il riscontro in Italia qual è stato? Molto positivo, perché la prima location di Roma ha risposto molto bene all'apertura notturna, diciamo, perché uno dei dubbi che nel nostro paese ci sentiamo rivolgere parlando ai potenziali affiliati è proprio il fatto di, in determinate ore notturne, se c'è interesse da parte del consumatore di frequentare. In realtà la risposta è molto semplice: finché non c'è l'offerta del servizio non c'è neanche la domanda, quindi non essendo aperti quasi nessuno 24 ore, quasi nessun cliente può allenarsi durante la notte. Invece noi vediamo che sulla location romana, dall'1 di notte alle 5 del mattino, c'è già un discreto numero di persone che frequenta. Quindi in una dimensione di vita e di consumo ormai insomma assolutamente fluide, c'è un popolo della notte che non ha a che fare solo con le discoteche e il divertimento, evidentemente. Sì, anche perché nel mercato appunto dei consumi anche altri brand aprono di notte, no? Quindi la grande distribuzione, che è il mondo dove noi andiamo a comprare tutti i nostri beni di consumo, da circa un anno a questa parte anche sul territorio italiano sta aprendo 24 ore su 24. Sì, poi è chiaro, il popolo della notte normalmente è quello del divertimento. È anche vero che allenarsi è tempo libero, è impiego del tempo libero, anche divertimento, un modo diverso di impiegare il tempo libero, quindi non solo in discoteca ma anche in palestra facendo attività fisica. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. In contemporanea con la mostra The Art of the Brick, inaugurata il 19 ottobre e aperta fino al 29 gennaio alla Fabbrica del Vapore, un milione di mattoncini per oltre 100 sculture firmate Nathan Sawaia, per la CNN una delle 10 mostre al mondo da non perdere. In contemporanea con questa mostra, dicevamo, ha aperto venerdì scorso a Milano, Piazza San Babila, il Lego Store più grande d'Italia. Ci racconta tutto Paolo Lazzarin, General Manager di Lego Italia. Sono 270 metri quadri di esperienza ad altissimo livello per i bambini. Oltre ad essere più grande, oltre ad essere avere l'assortimento completo di tutti i prodotti, oltre ad avere dei prodotti in esclusiva come tutti i Lego Certified Store, in particolar modo questo store, che potremmo definire per l'Italia assolutamente il più grande, ma il flagship store di Lego, ha tre elementi fondamentali. Uno è il Digibox, che praticamente è uno schermo digitale dove praticamente avvicinando una scatola viene letto il contenuto della scatola e si vede la realizzazione in tre dimensioni del prodotto. In un altro angolo del negozio abbiamo quello che si chiama minifigure scanner, dove praticamente i bambini, ma sicuro anche gli adulti, mettono la mano, il palmo della mano su questo schermo. Il corpo della persona viene scannerizzato e praticamente viene a estrazione, esce l'alter ego della persona, quindi la minifigures che si rappresenta. Io sono un robot, l'ho già fatto. Io sono un cantante rock. E invece all'entrata del negozio c'è un'altra bellissima attrazione soprattutto per i più piccoli, è un portale praticamente, Immersion Portal l'abbiamo chiamato, dove il bambino entra praticamente in una teca, in una cupola trasparente, dove praticamente a 360 gradi è circondato da un mondo che ovviamente verrà sostituito e cambiato col tempo proprio per offrire sempre un'esperienza nuova ai bambini. Com'è cambiato, in cosa non è cambiato Lego ai tempi del digitale e degli smartphone come intrattenimento anche per i bambini? Ecco, voi siete a tutt'oggi uno dei brand più potenti al mondo, con una brand awareness a livelli altissimi. Qual è il vostro segreto? Allora, il segreto purtroppo non è una frase mia, ma è cambiare pur rimanendo sempre se stessi. Questa secondo me è proprio la filosofia del mattoncino Lego. Il mattoncino Lego è così dal 1958, è un qualche cosa di semplicissimo che possono iniziare ad usare bambini di un anno e mezzo, e poi può diventare anche un qualche cosa di complicato per costruire, come ha visto il nostro artista, le opere che ha fatto sotto il Duomo di Milano che c'è in vetrina. Però al tempo stesso è l'elemento creativo, che è l'elemento vincente, è l'elemento intergenerazionale che veramente stimola la creatività. Psicologi addirittura arrivano a dire che è un qualche cosa che porta i bambini a sviluppare la concentrazione e il problem solving anche. Quindi molto, oltre all'aspetto ludico, un aspetto di apprendimento ed educativo. La parte legata al digitale non è assolutamente un qualche cosa che ignoriamo, anzi, però diciamo che abbiamo iniziato quest'anno, noi abbiamo una linea che si chiama Nexonite, dove c'è un'interazione col digitale, quindi come diceva lei con gli smartphone e con tutti i device digitali. Però diciamo che l'aspetto digitale è a corollario, è integrativo all'esperienza di costruzione manuale che rimarrà sempre. La vostra strategia per l'Italia, con questo a quanti Lego Store siamo? Con questo concludiamo il primo anno, siamo arrivati a 6 aperture, abbiamo iniziato con Arese, poi abbiamo fatto Marcianise, Orio al Serio, abbiamo fatto poi Torino, Roma il 1° novembre e oggi apriamo il, chiamiamolo flagship come ho detto prima, store qui a Milano. Ci sarà un piano di espansione che considera anche per i prossimi anni, sarà sempre un mix tra centro commerciali e zone, aree pedonali in centro città, ci stiamo lavorando. Dai suoni delle città ai dipinti sul ghiaccio, quando i brand incontrano i sensi, l'arte e le battaglie per l'ambiente. Ve lo raccontiamo nel Focus sui trend di questa settimana, subito dopo la pausa. Restate con noi. Stufe, caldaie e termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Essere e Avere. Mecenatismo. Tendenza a proteggere e beneficiare artisti e studiosi, motivata da ragioni di prestigio, oltre che di gusto. Focus sui trend. Sensibilità e sostenibilità sono le parole chiave dei consumi che promuovono nuove esperienze legate alla sensorialità e alle istanze ambientali e sociali. Questa è la tendenza della settimana, ci facciamo raccontare tutto da Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Buonasera Sabrina, bentrovata. Ciao a te, bentrovata. Allora, partiamo da un progetto bellissimo, a me personalmente piace molto, ha a che fare con i suoni e con le colonne sonore inaspettate, per così dire, delle nostre città. Parliamo di The Sound of City, di Chiara Luzzana, una sound designer che ha raccolto negli anni, partendo dal 2014 con Shanghai e poi raccogliendo fino a 14 città, 14 colonne sonore, è andata ad ascoltare la voce delle città, la voce, i suoni di ogni giorno, può essere il suono metallico di un cancello, il tram che si allontana, il fruscio delle foglie o la voce dietro una finestra, cioè tutti quei rumori che compongono la nostra colonna sonora quotidiana e di cui magari neanche ci accorgiamo. Ecco, lei li ha raccolti, li ha campionati e li restituisce in un progetto uditivo, visivo, per una lettura più ampia. Questo, come dire, progetto di sensibilizzazione all'ascolto, questo modo di sonorizzare immagini e movimento. Noi abbiamo anche potuto vedere durante la settimana del design qua a Milano il progetto realizzato per Milano, creato in collaborazione con Swatch, e quindi vedere il suo vagabondare di giorno e di notte per Brera, perché questo progetto di suono delle città vuole raccogliere la vita nelle 24-48 ore nei luoghi, diciamo nei quartieri artistici di queste capitali, di queste grandi città, quindi entrare con un altro, non con un altro occhio, ma con un altro ascolto dentro il mondo urbano. Ed è interessante vedere come anche le imprese sono interessate a questi progetti che sono di sensibilità artistica, legati anche ai macro temi del contemporaneo, quindi la mobilità, le città, ma possono essere temi anche legati alla sostenibilità ambientale piuttosto che di convivenza civile, unendoli però nella loro espressione, nella loro narrazione a dei linguaggi artistici. Dal suono al ghiaccio e all'arte, appunto, anche nel caso seguente, un'esperienza che trasmette molta sensorialità. Assolutamente, è un secondo progetto promosso da un'azienda, è What If You Fly, di un artista, si chiama Hula, il nome d'arte Hula, lui è un artista baiano Sin Yoro, che con il sostegno dell'azienda The North Face, che conosciamo per l'abbigliamento e per gli accessori di outdoor, quindi città ma anche escursionismo, ha promosso questo suo viaggio nell'Artico canadese, nell'isola di Baffin. Ecco, lui è un artista che realizza murales e opere anche in luoghi inconsueti, ma questa volta ancora più straordinario e inconsueto il luogo, perché è andato nell'Artico alla ricerca di un pezzo di ghiaccio che può potesse sostenere il suo peso e quello delle sue attrezzature, quindi ha navigato per giorni in mezzo ai ghiacci, alla deriva, e ha dipinto il volto di una donna Inuit. Il video che riprende questa esperienza di viaggio, di ricerca, di arte, contiene anche un'intervista alla donna, e l'interesse dell'artista e anche dell'azienda, che conosciamo con un mantra che è Never Stop Exploring, quindi l'idea di esplorare, conoscere, avventurarsi, dicevo. L'obiettivo dell'artista era parlare di un mondo in cambiamento, di effetti climatici molto critici, ma non soltanto parlando di ambiente, ma parlando di popolazioni. Video che abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook, le immagini sono veramente straordinarie. Il prossimo caso ha a che fare con le piante, Sabrina, la natura e il design. Il progetto si chiama We Smell the Rain, quindi attiviamo ancora qui come suggestione un altro senso, qui proprio quello dell'olfatto per arrivare al tatto, al lavoro di design, lavoro anche con le mani. Questo studio di interior design di Amsterdam, appunto We Smell the Rain è il nome, che vuole ricostruire quel passaggio, quel ponte fra la natura e la città, attraverso che cosa? Un lavoro con le piante, con il verde, progettando spazi, progettando oggetti che possono vivere sia nei luoghi di vita, le nostre case, ma anche luoghi di lavoro. In particolare, la loro prima collezione di oggetti verdi, chiamiamoli così, sono questi kokedama, un'antica tradizione giapponese, un lavoro che nasce nel 1600, chiamati anche mini bonsai o bonsai volanti. La differenza con i bonsai è che non hanno vaso. Quindi queste mini sculture, come dire, dei mini ecosistemi, vengono lavorati e portati nelle case come dei tasselli di piccoli passi per ricostruire il verde all'interno del nostro spazio abitativo. Realizzano oggetti ma anche installazioni con queste tecniche di lavorazione. È interessante vedere che questo progetto viene portato anche attraverso workshop, non soltanto per singoli ma anche per aziende. Quindi vedere anche come il lavoro stesso con il verde e lo spazio che ci circonda può essere un motivo di interesse anche per azioni di team building. Sono tutti progetti che invitano a guardare in modo diverso, da un approccio diverso, lo spazio che ci circonda. Sabrina, l'ultimo caso ci porta di nuovo in Italia, dai blocchi di ghiaccio galleggianti dell'artista hawaiano, passiamo invece alle cosiddette isole di plastica galleggianti. Arriviamo in Sicilia, in provincia di Trapani, di fronte a Marsala, nell'isola di San Pantaleo, esattamente nella cittadina di Mozia, con un'installazione artistica notevole, direi, che si chiama Help, l'età della plastica. Qui abbiamo un'artista, Maria Cristina Finucci, che con 5 milioni di tappi di plastica colorati, un numero impressionante, racchiusi in alcune gabbie, diciamo, metalliche, ha creato questa macro scritta Help in uno spazio di 1500 metri quadrati, appunto nella città di Mozia, proprio nell'area archeologica, e quindi questa installazione crea anche un forte contrasto visivo, una sorta di cortocircuito con le rovine fenicie presenti nel sito. Fra l'altro è anche interessante sorvolare di notte l'area, perché è tutto illuminato con LED ed è molto interessante vedere nell'insieme, no? L'idea di questo legame fra riflessione critica, mondo dei consumi, ma anche artistica e propositiva allo stesso tempo. È una convergenza che rileviamo crescente, no? Di modalità espressive e narrative diverse, che da una parte trattano le questioni cruciali e vincoli ambientali e dall'altra parte trasformano questa analisi in un punto di partenza per una creatività sempre più originale. In un certo senso una nuova forma di mecenatismo che si fa anche comunicazione di marca. Assolutamente, sono delle potenzialità non soltanto etiche ma anche culturali e comunicative in questo incontro, direi, felice tra ecologia, creatività e qualità della vita. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. A te, a presto. Il consumautore. Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Bentrovato Francesco. Bentrovata Maria Luisa e buonasera a tutti i radioascoltatori. Oggi partiamo da uno slogan, Be Beta, un'espressione mutuata dal mondo della tecnologia per indicare una fase di prova, di collaudo. Sì, di prova, di collaudo e nello stesso tempo anche di imprevedibilità. Parliamo di consumautori anche perché i nostri interlocutori hanno un loro pensiero, un loro progetto di vita che tante volte non viene compreso, e quindi questo elemento di doversi continuamente ridefinire sulla base poi di come la realtà si esprime è, credo, una capacità assolutamente vitale anche per le aziende e chi più lavora nel mondo dei consumi. E forse l'esempio in questa settimana più clamoroso è legato ai risultati delle elezioni americane. Quindi l'imprevedibilità, attrezzarsi per questo. Sì, attrezzarsi per questo, perché avere dei progetti anche molto ben articolati, pensati a tavolino, per magari un mercato che si immagina in un certo modo, davvero non basta più, no? In fondo Hillary Clinton, dispiace dirlo, ma è una vita che si preparava a questa occasione, e tra l'altro tutto il mondo dei media era concorde nel dare a lei, assegnare a lei la vittoria, e non solo non ha vinto ma ha straperso. Ecco, allora da questo punto di vista bisogna, credo, fare una riflessione che riguarda un po' tutti noi sugli strumenti che noi oggi abbiamo di vera comprensione. Quindi la dimensione beta è quella dei veri ricercatori, cioè di quelli che stanno in laboratorio e quindi devono continuamente ridefinire il concetto anche di verità. Una grande sconfitta anche per il mondo dei media, il mondo dei sondaggi. C'è qualcosa che non va nell'ascolto delle persone. Sì, c'è qualcosa che non va nell'ascolto, e c'è qualcosa che non va in questa, davvero, questo vizio di essere autoreferenziali, no? È un po' come continuare a raccontarsela tra esperti, giornalisti, politici, e non capire che fuori il mondo sta davvero cambiando, e spesso mancano anche proprio gli strumenti. Non è cattiva volontà, è che proprio non riusciamo a entrare in sintonia con il mondo vero, diciamo. E proprio Be Beta è stato il claim di un evento che torna ogni anno a Milano, denso di spunti. C'eri anche tu quest'anno, Francesco, il World Business Forum. Ho appunto cercato di raccontare come le persone siano, da un certo punto di vista, quanto di più prezioso noi abbiamo come capacità di ascolto, ma nello stesso tempo dobbiamo abbandonare l'idea che li possiamo manipolare. Su questo, purtroppo o per fortuna, diciamo, c'è una grande riflessione anche politica e di comunicazione da fare. Grazie a Francesco Morace, grazie a Pietro Lacorte in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.